24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Eccolo qui, è la frase che Silvio Berlusconi ha detto a Brescia e che e fu la frase celebre di Enzo Tortora. Di Enzo Tortora, io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi, i giudici. Voglio salutare subito Bimbo Alieno. Buongiorno Bimbo Alieno, mi devi aiutare. Buongiorno. Hai visto La verità dei vent'anni ieri su Canale 5? No, la guerra dei vent'anni, no, porca, neanch'io. C'era Milan Roma, speravo che mi dicessi questa verità disvelata che promettevano. Ma di dire, io ho visto i promo, ho intuito, diciamo così, il livello del contenuto, sì. E me lo sono risparmiato, onestamente. Adesso fai, mi fai. Sembrava un'autoassoluzione, eccolo, prescritta. Eccolo lì, no. Vabbè, insomma, dai, il giorno prima della requisitoria uno fa un programma, come dire, raccontando, vabbè, libero di la fare sua quello verità. Mica l'ha fatto Berlusconi il programma, l'ha fatto Canale 5. No, mi pare, sì, è certo. Punto. Ah, ecco, punto. Vabbè, facciamo così, non l'hai visto, mi hai deluso. Allora, apriamo subito il bar perché voglio chiedere all'altro ospite se l'ha visto, magari in Cina è arrivato, è stato mandato. Apriamo subito il nostro Parlamento, che così... Il caffè volentieri a tutti quanti. Possiamo subito entrare in clima. Intanto saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapel alpino è tornato dalla Dunata, dove vale, non vi descrivo la faccia. Cos'è? Forchielli, buongiorno. Forchielli ride dalla cena. Sarà vinazzato. Mamma mia, c'ha una faccia stamattina. C'ha una faccia stamattina, mi è arrivato, fa buongiorno così. Forchielli, l'hanno data in Cina questa, in TV, in questa cosa della la guerra dei vent'anni, credo, la verità del rapporto tra Berlusconi e Ruby, ieri su Canale 5 in prima serata. No, guardi, non è che per sogno, io Berlusconi lo voglio vedere solo in uno specchietto retrovisore, mentre io vado a Roma lui va in Bielorussia. Perché in Bielorussia? Addirittura in Bielorussia. Perché è l'unico paese che lo prende. Ah. Ha sentito questa frase su Tortora, ma non è che si è paragonato a Tortora, ha detto, però ripensavo a quella frase di Tortora. Sì, vabbè, ma Tortora era una procura, capito? Lui ce ne ha 58 di procure, capito? Ah, dici. Tortora, se voglio dire, c'è una differenza che... Berlusconi ha avuto tutte le procure d'Italia praticamente, Tortora ha avuto un procuratore con due pentiti che si sono messi d'accordo apposta, non è un paragone che stia in piedi. Non avete visto questa cosa, non so, Bimbo Alieno, non hai visto questa cosa, e vabbè, dobbiamo parlare d'altro. Spero che esca presto il DVD in edicola, dai, così recuperiamo. Dobbiamo parlare d'altro. Ieri è successo questo, a leggere tutti i giornali, sono andati in pullman, Forchielli, in abbazia, dove sono adesso in abbazia, per fare spogliatoio. Sì, ma sembrava lo spogliatoio dell'Inter tra Ibrahimovic e Balotelli, cioè pare che in pullman sia avvenuta una rissa verbale tra Alfano e Letta, con Letta che ha detto ad Alfano un'altra manifestazione come a Brescia, io me ne vado, sono scesi dal pullman con gli occhi lividi nel senso, non è che se le sono date, ma... Forchielli, altro che spogliatoio. Ma quindi... guardi, il governo ha la miccia corta. Sì, I problemi nella pentola del PD non li sa neanche Coperchio. Niente. Per cui la situazione è così. C'è solo una fortuna in questo momento che le spread stanno scendendo drammaticamente in tutto il mondo, che è un fenomeno mondiale dovuto all'eccesso di liquidità, soprattutto in Giappone, che sta spingendo i tassi addirittura al negativo, per cui le nostre spread sono scese moltissimo e quindi è possibile che riusciamo a finanziare l'IMU e queste altre cose. Ma infatti perché, parte lo scenario. Perché tra l'altro l'altra parte, l'altra parte che io continuo a dirtelo, e te ciò capiati non mi stai mai a sentire, poi dopo ti accorgi l'ultimo minuto, ma l'altra parte è che quasi due terzi della pubblicità di Publitalia viene da multinazionali. Publitalia, sto prendendo appunti. Un'azienda legata ai consumi e un'azienda tragicamente dipendente dall'estero. Vabbè, questa me la sono segnato però stavolta, perché due terzi di pubblicità dobbiamo assolutamente, questa di Berlusconi sui problemi giudiziari non è la sua vera preoccupazione. No, ma questa ce l'ha già detto l'altra volta, il Cioccapiatti qua ha preso appunti. Allora, a proposito dell'IMU, Bimbo Alieno, oggi sui giornali raccontano che Sacco Manni, ieri all'Abbazia, pare che voglia portare la sospensione non solo della rata di giugno della prima casa, ma anche dei capannoni industriali, agricoli, insomma, anche la vicenda del Sole 24 Ore che ha portato due giorni fa alla ribalta dicendo che sono aumenti del 200%. Allora la domanda è, dove li troviamo questi soldi? Forchielli ci ha detto che con lo spread si possono trovare i soldi, ma si possono trovare i soldi per cancellare tutto questo tra un mese? Ma allora, intanto credo che non si tratti di cancellare, ma di sospendere. La parola sospensione ti fa capire quanto potrebbe capitare. Cioè, ho capito, la rata si ripropone come i peperoni qualche tempo dopo. Ah, bene. Perché voglio dire, anche dell'IMU prima casa si è detto poi a un certo punto che la rata semplicemente veniva spostata a settembre, non veniva sospesa la rata di giugno, ma semplicemente per riproporla a settembre. Quindi non è escluso che innanzitutto possa capitare una cosa del genere, anche perché le risorse si possono anche trovare da qualche parte nel bilancio. Il problema è trovare l'accordo politico a quanto è successo ieri credo che non sia così probabile. Non è facile. Per esempio, sapete dove possono trovare una risorsa? Arriva una nuova tassa, indovinate dove? Forchielli, stanno per mettere una nuova tassa in Italia, indovina dove? Una nuova tassa su un fenomeno di moda, tantissimo, sta andando tantissimo negli ultimi anni. Gangnam Style? No, la sigaretta elettronica! Stanno per mettere la tassa sulla sigaretta elettronica, cari svapatori, si chiamano così. Sono dei castagnacci. Ho capito, ma ci sono 2 milioni di italiani, la sigaretta elettronica! Ma allora vuol dire che è assimilabile al tabacco? Scusa, se il ragionamento è questo, se è tassabile, non... Arriva questo, vi do questa bella notizia, alle 6.41 di lunedì, 13 maggio, arriva la tassa sulla sigaretta elettronica. Ecco, Bimbo Alieno, abbiamo trovato già un po' di soldi. Vabbè, in effetti, voglio dire, tutta questa sostituzione di fumatori che passano alla sigaretta elettronica sono mancate entrate per il fisco, si dovrà appunto... Ma ho capito, ma scusa, ma dopo dicono che il fisco ti insegue e ti mette una tassa ovunque, ma se non è tabacco. Ma si tratta di potenziali evasori questi qua, se fino a ieri pagavano indirettamente le imposte fumando, guarda che probabilmente molti passano la sigaretta elettronica apposta per eludere il fisco. Certo. Meno male che stai scherzando, sennò ti facevo rivedere in rallentatore La guerra dei 20 anni in DVD speciale comprato per te. Sentite Brunetta, le contestazioni a Brescia, Brunetta un nervoso Brunetta che continua lui a fare, quando è nervoso fa ossessive domande lui all'intervistatore, sentite. Ci sono 100.000 persone, allora ci sono 5 contestatori e 50 che mi hanno applaudito, l'ha visto? Da che parte sta lei? Da che parte sta lei? Da nessuna parte. Da nessuna parte, ora 50.000 che hanno applaudito e 5 contestatori, grazie. Bravo. Buongiorno. 5 contestatori. Sentite Brunetta, Brunetta quando è nervoso. Quale? Manifestazione elettorale. Noi siamo in una democrazia e quando ci sono le elezioni sì, fanno una manifestazione per le elezioni. Lei non è d'accordo? Lei non è d'accordo? Cos'è la cosa di cui c'è bisogno di più di fare per cambiare il mondo? Lavoro per i giovani. Lavoro per i giovani, lei è d'accordo? Lei è d'accordo? Da che parte sta? Forchielli, quando si innervosisce Brunetta è così, fa domande lui ossessive. Ma sì. Peccato perché è tanto simpatico quando non sei un povero taraghignino. No, sempre lì che taraghigna, che cos'è come quei cagnetti lì, come si chiamano, quei chihuahua, no? Sempre. No, cos'è che mi ha detto? Cos'è un È sempre lì che taraghigna, capito? È sempre lì che cerca lo scopo, sempre lì che taraghigna, sembra quei cani tascabili che portano le signore, che ringhiano sempre, si chiamano i Carlini, è una razza, i Carlini, sì, quelli li conosco, capito? Sì, quelli li conosco. Sempre lì che però non fa male, perché poi alla fine non... Capito, non è Rottweiler. A che punto invece siamo? Vabbè, insomma, questa è Brunetta, è così. Taraghigna, ma taraghigna che verbo è? Taraghignare, cioè. È un taraghigna. Transitivo. Taraghignare, in transitivo, non lo so. Vabbè, no, mi interessava la questione prima della pubblicità, che diceva la pubblicità di pubblicità. Ce la spiega bene dal suo punto di vista cinese, Forchielli. E quindi perché Berlusconi non... O nessuno parla di questo? Mediaset ha perso il 14% di pubblicità l'anno scorso e ha perso 300 milioni di euro. Sì. Per la prima volta nella sua storia. I due terzi della pubblicità che riceve Publitalia, quindi Mediaset, vengono da multinazionali. Le multinazionali sono sostanzialmente da 3-4 paesi, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, paesi le cui opinioni pubbliche odiano Berlusconi. Ecco. Loro si rendono conto di questa roba qui, di averlo in mano così, a Bunga gli rimane Orzo Bimbo e la polenta valsugana da pubblicizzare in televisione, capito? Ecco, l'editoria... Quindi metterlo in ginocchio è un giochino da ragazzi. Basta che si parli insieme 10 multinazionali. Lui diventerà Presidente della Repubblica, però Mediaset è finita. Presidente della Repubblica, doveva diventare senatore. Ormai Bungasconi non è un problema italiano. Bungasconi è un problema sistemico. Pone un problema sistemico al mondo, a tutto il mondo. Addirittura. E non lo vuole nessuno tra i coglioni. È il problema. Vabbè, insomma, e questo è questo. Gli italiani. Forchielli è così. La ricetta di Forchielli è questa. Vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Attenzione, perché entriamo dalla segreteria telefonica. Forchielli, orecchie aperte, perché c'è un bolognese che non gliele manda a dire. Ha un messaggio per lei tra poco. 24 mattino. Comune di Pietrasanta, Toscana, fondo commerciale metri quadrati 24, pagato IMU anno 2012, euro 1200, impossibilitato il pagamento 2013, regalare il pezzo al comune. Sto Berlusconi. Ma su quel cazzo di cartello di ogni tribunale che c'è scritto la legge è uguale per tutti, è o non è uguale per tutti? Perché siamo veramente un paese di manichini. Di manichini! Invece di cambiare nome alle tasse aumentandole, la TARSU che diventa TIA, la TIA che diventa TARES e aumenta. L'ICI che diventa IMU e aumenta. L'ILOR che diventa IRAP e aumenta. Aumentate e basta. Lasciate lo stesso nome. Lasciate da parte questi fantasisti dei nomi. Quando ero ragazzina ho chiesto a mio nonno perché nello storico referendum lui avesse votato per mantenere la monarchia. La sua risposta: con la monarchia è uno a mangiare, con la repubblica invece sono tanti. Sì, Milan, buongiorno. Oggi qui piove. Lo sai di chi è la colpa? È di Grillo. Caro Milan, ma lei che cosa ha pagato di IMU? Perché minimizza Torino, zona semicentrale, alloggio di 90 metri quadri in casa definita solo decorosa. Io ho pagato 850 euro. La mia pensione è di 1400 euro. Non so perché lei minimizza così tanto... Forchielli, buona le, te rotti marron, Forchielli, cosa t'avrai fatto Berlusconi? Se Milan è un cioccapiatti, te ti un pon da ninta, a Bologna stisa c'è, pon da ninta, a salut, sfighè! Forchielli, eccolo che è arrivato in Cina questo saluto caloroso da Bologna di... Un ascoltatore che ha fatto? Quello è un comunista. No. No, comunque. È uno di Bungasconi o un comunista? Beh, ha detto che le ha fatto Berlusconi, quindi sarà uno. Sì, ma sai, si mischiano, come gli ultimi eventi ci hanno insegnato. Anche Bungasconi è un po' comunista. Un po' comunista. Mamma mia, Berlusconi comunista. Bimbolino, di qualcosa per Berlusconi. Devi controbilanciare, non c'è la par condicio, ma devi dire. Bimbolino, tira fuori la prima cosa. Il lo dava Violante, Bungasconi voleva D'Alema presidente. Intervieni, Bimbolino, di qualcosa per Berlusconi subito. Immediatamente. Ma mi sembra evidente quello che dice Foschielli sia giusto, no? Berlusconi comunista mi sembra l'evidenza dei fatti, no? Dai, oggi Bimbolino si è svegliato così, deve andare al festival della minchiata di Spoleto e quindi si è svegliato con questo. Sentiamo Berlusconi a proposito di comunisti, tutti, no, visto? Professionisti dei loro errori, chi non salta comunista, chi non salta, forza Forchielli lì nella patria del comunismo, chi non salta comunista, ma sentite la chiosa di Berlusconi, io non posso saltare perché ci siamo al governo insieme. Siamo al governo coi comunisti e quindi non può saltare. No, voglio rispondere alla signora che mi dice: io non è che minimizzo l'IMU. Signora che mi dice a Torino, speso 800. Non minimizzo l'importanza per un pensionato, per una persona che fa i conti a fine mese di avere l'IMU indietro. Minimizzo il fatto che dico: ma non è una cosa così importante. Cioè, facessero delle riforme strutturali, vere, abbassassero le tasse in generale. Non è cancellare l'IMU, sì, vi danno indietro dei soldi, sono importanti queste cose. No, sbaglio, Bimbolino, ma la questione era più una. No, ma tra l'altro aggiungerei che presumo che quella casa non sia registrata come prima casa della signora, perché è un appartamento di 90 metri quadri, 800 euro. Adesso io non so le aliquote di Torino, sì, però si parla di quello, della prima casa. Ma comunque, indipendentemente, è importante che si facciano le cose a lungo termine. Però vi voglio ora far sentire una similitudine e un paragone che Vito Crimi si chiama così, capogruppo, sa chi è Vito Crimi, Forchielli? Il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Sì, quello del matrimonio con la Rolls Royce. Sì, vabbè, ha affittato la Rolls Royce per farsi il matrimonio come moltissimi italiani. Sentite bene a cosa ha paragonato Beppe Grillo. L'hanno chiesto ieri dalla Luce Annunziata, ha detto: ma lei Beppe Grillo come lo definirebbe? Sentite. Mia opinione, io ho visto Grillo come un padre che accompagna un bambino che sta camminando carponi e lo guida affinché cammini su un percorso lontano dai pericoli, e questo è il percorso che noi dobbiamo percorrere, lontano dai pericoli, e il primo pericolo sono i soldi. Avete capito? Un padre che accompagna un figlio che va a carponi e lo fa camminare. Ecco, Forchielli, questo è Beppe Grillo. Uno... Voilà, che i 5 Stelle sono meno governabili della Jolly Nero. Vanno da tutte le parti. Addirittura, vabbè, dai, quella lasciamola stare, la Jolly Nero. Sì, che, vabbè, ma sì, capito, stanno anche loro taraghignando sulle diarie, non sono riusciti ad avere una linea unitaria sulla presidenza della Repubblica. Siamo a questo punto, lo dobbiamo quei voti lì, capito? Però è bella l'immagine, no? È un po' da, sì, Bimbolino, da guru Beppe Grillo che insegna. C'è uno anche una discreta ammissione tacita, no? Immaturità di fondo del movimento. Di la verità, tu Bimbolino, quando hai cresciuto le tue figlie ti sentivi un po' Beppe Grillo quando dicevi: dai, adesso da carponi alzati in piedi, no? Lontano dai pericoli. E poi il pericolo maggiore sono i soldi. I soldi. Questo, i soldi, proprio la demonizzazione del denaro. Io questa, Forchielli, è un demonio, lo sterco. I soldi. Beh, sì, non per Grillo, perché c'ha barca, casa in quartieri di lusso, casa a Lugano, perché lui è già adulto. 4,8 milioni di esatto, euro. Lui è già adulto, quindi sono già adulto, per tutti tranne che per lui. No, giustamente dice Bimbolino, lui non va a carponi, è adulto, quindi insomma ha fatto il suo percorso e quindi può avere i soldi, no? Bimbolino. Sì, allora per lui va bene, per gli altri no, ma comunque siamo perdere, cioè non cosa vuole, ormai Grillo si è espresso, è al massimo, la legge di Peters è arrivato al massimo della sua incompetenza. La legge di Peters. Oltre la quale non riesce più a spingersi, non riesce a essere propositivo. Sono mesi che sono ancora lì sulle diarie, non hanno uno straccio di proposta economica in un paese dove i problemi sono fondamentalmente economici. Stiamo a vedere oggi come va questa cosa delle diarie. Bimbalino, legge di Peters. Uno pensa di andare al bar, deve finire di andare a studiare, a prendere i libri. Vabbè, la legge di Peters, vado subito a studiarmela. Grazie, vi ringrazio, devo chiudere il bar per il momento. Bimbalino, Alberto Forchielli, ci ritroviamo dopo le GR del 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci, siamo pronti qui alle 7:23 minuti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo di questo momento della politica dopo le manifestazioni a Brescia da parte del Popolo della Libertà, la scelta di Epifani per il PD. Avremo ospiti Gianfranco Galan per il PDL e Pippo Civati per il PD a parlare appunto di attualità politica. Questa è le 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. Eccoci qua con i titoli di lunedì 13 maggio. Intanto il Sole 24 Ore, lavoro, ricetta francese per i giovani. Questa è l'emergenza occupazione con delle novità in arrivo, tra poco le vedremo. Poi su tutti i giornali praticamente l'apertura è la situazione di tensione che si è creata ieri tra Letta e Alfano dopo la manifestazione a Brescia del Popolo della Libertà. E infatti Corriere della Sera, Letta, basta o il governo rischia. Repubblica, stopa ministri in piazza e TV. La Stampa, Letta, basta ministri in piazza. Il Messaggero, Letta Alfano, scontro sul governo. Per l'Unità, ultimatum di Letta al PDL. E il Secolo XIX, comizi e TV vietati ai ministri. Il Giornale invece, persecuzione giudiziaria, le 7 bugie su Ruby, dopo lo speciale ieri in prima serata sul processo appunto in cui è imputato Berlusconi. I padroni della politica, questo invece è il titolo inchiesta del Fatto Quotidiano, edizione del lunedì. Intanto una buona notizia, cari svapatori, abbiamo già anticipato alle 6:30, cari cittadini italiani che siete passati alla sigaretta elettronica, siete in 2 milioni pare, è un fenomeno sempre crescente, e allora mani sulla sigaretta, si potrebbe dire in questo momento, mani sul volante, perché attenzione, ovviamente il governo cosa sta pensando? Di mettere una bella tassa. D'altronde molti sono passati dalla sigaretta tradizionale a quella elettronica, dove non si paga l'accisa sul tabacco, ma non per sempre. Il fisco è pronto a colpire anche le sigarette elettroniche, così pagina 7 di Repubblica, Valentina Conte, accise estese anche alle sigarette elettroniche, il nuovo balzello spunta in un emendamento a un decreto che sblocca 40 miliardi di crediti scaduti della pubblica amministrazione verso le imprese. Dunque, martedì è atteso in aula, domani è un emendamento dei due relatori. Cosa porterà? Cosa coprirà questa eventuale accisa sulle sigarette elettroniche? Lo 0,12% del decreto stesso. Sono minuzie, sono qualche milione, ma pur di tassare, non c'è davvero occasione in cui lo Stato perde tempo. Eccolo qui, anche sul Giorno, tabacchi in calo, il fisco piange. E ora tassa la sigaretta elettronica. Anche il Messaggero a pagina 3, la nuova accisa sul fumo per dare più soldi alle regioni. E come si fa? Lo Stato è lì a pensare come si fa a recuperare soldi. Una bella tassa è la soluzione sempre bella che è pronta da adottare. L'ultima arriverà appunto sulla tassa sulle sigarette elettroniche. Siete contenti? Siete passati dal tabacco alla sigaretta elettronica? Pensavate di risparmiare un pochettino almeno sull'accise, e invece voilà, eccoli. E allora voglio parlare e tornare per un attimo sulla questione di cronaca, che a Milano ha davvero fatto risvegliare ieri la città in un incubo, almeno in una zona, in un quartiere dell'ospedale Niguarda, dove avete sentito, anche se non siete di Milano, avete letto sicuramente i giornali, questo cittadino ghanese ha, l'altro ieri per la verità, ha ucciso una persona, due sono in fin di vita, altre due persone sono ferite seppure lievemente. Insomma, una mattina di ordinaria follia, con un piccone, con una spranga, incontrava le persone dalle 5:30 del mattino, le poche persone che incontrava, e colpiva per uccidere. Perché la polemica? La polemica, come racconta il Corriere della Sera, l'ha anche lanciata il sindaco Pisapia sul ritardo incomprensibile nel lanciare l'allarme ai carabinieri, alla polizia. Pensate, è passata un'ora dalla prima aggressione fino alle aggressioni nelle quali questo cittadino ghanese ha colpito per uccidere. In questa ora nessuno ha avvisato il 112. La paura che ci spinge a non chiamare il 112, così Anna Chiara Sacchi e Gianni Santucci sul Corriere della Sera raccontano a pagina 19 quest'ora abbondante tra le 5 e le 6 con un passaggio chiave. In quell'ora Mada Kabobo, killer di Niguarda, passa da aggressore minaccioso con in mano una spranga a killer invasato con in mano un piccone. E allora la domanda è: ma perché nessuno, anche delle persone aggredite, ha chiamato il 112? Il primo, Andrea Carfora, 24 anni, colpito con una sprangata su un braccio, è scappato ai giardini, atteso, poi era entrato a casa, si è presentato in pronto soccorso solo molto più tardi e dice: sono stati momenti di terrore, ho pensato solo a fuggire, non lo so perché non mi sia venuto in mente di chiamare le forze dell'ordine. O il secondo colpito, Antonio Niro, alle 5:20, sono crollato a terra, ho battuto col volto sull'asfalto, ho perso gli occhiali, mi sono rotto il naso, sono svenuto e quando ho ripreso conoscenza la strada era deserta, ho barcollato fino a casa e ho impiegato tempo. La terza vittima, Antonio Morisco, si salva, riesce a fuggire nel portone del suo palazzo, lo richiude dietro le spalle prima che il ghanese lo attacchi e spiega: mi aveva spaventato, ma non ho pensato a quello che poteva succedere. A questo punto, dopo la terza aggressione, sono le 6 del mattino. Si chiude qui l'ora abbondante delle prime tre aggressioni, nessuna chiamata alla polizia. Ed ecco tra le 6:20 e le 6:30 invece gli agguati, uno dei quali mortali. Ora c'è anche il sociologo Aldo Bonomi che dice: certe tragedie possono accadere ovunque, nei piccoli comuni certo il controllo è più forte, ma ormai è una società dalle maglie troppo larghe in cui il bene individuale prevale su quello comune e ci si sente al sicuro solo tra le mura di casa, poco importa se si tratti a Milano o un paesino di montagna. Insomma, diffidenza, individualismo, sfiducia, tutto questo, dicono gli psicologi, ha portato anche a non chiamare la polizia. C'è anche una polemica perché ieri c'è stata una manifestazione della Lega nel quartiere, per la verità sono stati anche contestati, dice: non strumentalizzate questa vicenda. E per la verità il leader della Lombardia, il governatore Roberto Maroni, fa un'intervista a Rodolfo Sala su Repubblica, pagina 13, e dice: quello è un folle e il ministro Chienghe non c'entra, ma se continua così torneranno i barconi. Io non faccio alcun collegamento tra le proposte della ministra Chienghe e incredibile episodio di Milano, esordisce così l'intervista di Maroni. Quell'immigrato è un pazzo, l'immigrazione è un tema che chi ha responsabilità di governo dovrebbe però maneggiare con cura, lo dico da ex ministro dell'interno, tanto è vero, dice Maroni a Repubblica, che sarà un caso, ma sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, perché il messaggio che ha dato il ministro Chienghe appena insediata, quello di abolire il reato di clandestinità e di dare lo ius soli, sono parole che sono rimbalzate immediatamente dove origina l'immigrazione clandestina e i clan si sono organizzati, non certo i poveracci che vogliono scappare, non certo le persone che vogliono scappare dal Maghreb, non sono i poveracci a dire andiamo, ma i trafficanti, a concludere che adesso in Italia per i clandestini ci sarà un clima più facile. Questo Maroni su Repubblica. Va bene, ci fermiamo, tra 5 minuti ripartiamo dal fare spogliatoio. Allora, hanno fatto spogliatoio, stanno facendo spogliatoio o era uno spogliatoio come in quelle squadre rissose in cui ci si prende a pugni? Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo riemersi alle 7:38 minuti, un po' in apnea, ma ci siamo. ancora fino alle 7.54 per la lettura della rassegna stampa e dei giornali. Allora, come detto, Letta e il governo sono in abbazia in questo momento, stanno facendo colazione, il programma prevede alle 7 in punto colazione, quindi staranno facendo colazione in questo istante. Ieri sono andati per fare spogliatoio in pullman, ma a leggere tutti i giornali pare che il viaggio in pullman sia stato uno di quegli spogliatoi un po' rissosi, no? Un po' stile io ho twittato Ibrahimovic Balotelli o Totti Cassano, vi ricordate, no? E perché pare che in pullman sia successa una vera e propria confronto verbale molto molto forte tra Letta e il vice Alfano, soprattutto dopo la vicenda della manifestazione di Brescia del PDL il giorno prima. Letta minaccia un'altra Brescia e lascio, titola così per esempio il retroscena pagina 3 Repubblica. Goffredo De Marchis racconta di come la situazione sia stata davvero di tensione. Un'altra Brescia e mi dimetto, è chiaro? Enrico Letta e Angelino Alfano sono uno di fronte all'altro sul van dove i sedili si girano e permettono ai passeggeri di guardarsi negli occhi. Per due ore nel tragitto tra Roma e l'abbazia di Spineto, premier e vice premier litigano senza rete per la manifestazione di Berlusconi. Volume alto, parole pesanti che sembrano l'anticamera della crisi di governo. Come ho detto che non avrei fatto un'esecutiva a tutti i costi, dice Letta, così oggi ti dico che non andrò avanti a tutti i costi. Per lunghi minuti una soluzione appare impossibile sull'autosole. Alfano che ripete, lo capite che noi, quando abbiamo il nostro leader sotto attacco, è nostro diritto difenderlo anche in piazza, perché le nostre piazze sono diverse dalle vostre. Ogni tanto intervengono anche Franceschini e Lupi. Sta di fatto che scendono dall'abbazia di Sarteano, annullano la conferenza stampa d'arrivo e gli sguardi sono lividi. Così racconta almeno Repubblica, ma tutti i giornali raccontano di questo viaggio tormentato nell'abbazia tra pioggia e silenzi, il clima teso dello spogliatoio. A pagina 3 del Corriere della Sera Fabrizio Roncone racconta appunto del van che rallenta sulla stradina sterrata all'arrivo a Sarteano. Ora provate a immaginare la scena: il portellone si apre, ecco lo sguardo del vice premier Alfano che compare nella penombra. Alfano appartiene a quella categoria di politici incapace di fingere allegria, probabilmente stavolta neppure ci prova, è livido, è accigliato. Dietro Alfano appare Lupi che ha fretta di scendere. A questo punto spunta Letta che, al contrario di Alfano, un sorrisetto di circostanza tenta di abbozzarlo. Poi scende Franceschini, a lui manca solo il fumo dal naso. E insomma, deve essere stato un viaggio davvero di quelli, altro che fare spogliatoio. Questa immagine, facciamo spogliatoio, rischia di diventare, di ritorcersi contro anche per la stampa. Facciamo spogliatoio, ma dentro l'abbazia le squadre restano due. Sul secolo XIX, sul van, la minaccia ad Alfano, fallo ancora e mi dimetto. Il clima davvero sembra di quelli di estrema tensione, anche perché il giorno prima c'era stata la manifestazione a Brescia e questo non è piaciuto a Enrico Letta, il fatto che ci fossero dei ministri. Dopo ne parleremo anche con Giancarlo Galan e Pippo Civati. C'è stata anche una nuova polemica del Popolo della Libertà che ha tirato in ballo anche la presidente della Camera, Laura Boldrini. È stato Brunetta a dire: mi rivolgo a voi presidenti Boldrini e Vendola, ci sono state contestazioni a Brescia di teppisti che hanno cercato di impedire la libertà di manifestare, erano radunati intorno a numerose bandiere rosse di SEL. Quindi ci sono due possibili interpretazioni, dice Brunetta: o quelle bandiere erano state rubate e allora dovreste denunciare il furto, oppure erano sventolate da militanti del vostro partito. In questo caso è grave e pericoloso il silenzio della terza autorità della Repubblica e del presidente di una regione. Tira in ballo dunque Boldrini e Vendola, questo Renato Brunetta. Ora ha voglia Renato Schifani, ex presidente del Senato, a fare un'intervista, oggi intervistato da Paola Di Caro sul Corriere della Sera, pagina 9, trovate l'intervista, a dire: il governo non cadrà certamente e non rischia sui processi a Berlusconi. Il titolo dell'intervista è proprio questo: l'esecutivo non cadrà per i processi di Berlusconi, ma la giustizia deve essere riformata. In questa intervista ribadisce Schifani: non cadrà il governo per responsabilità del PDL, non daremo certo pretesti a nessuno per dire che l'esecutivo cade a causa dei processi di Berlusconi, noi ci siamo assunti l'onere di farlo nascere, scinderemo i temi della giustizia dal sostegno all'esecutivo, come ha detto anche lo stesso Berlusconi. Ma certo, il tema della giustizia è il tema che nettamente tiene banco ancora. e crea polemiche, anche perché io non so se voi l'abbiate visto, io non l'ho visto perché c'era ieri la partita di calcio Milan-Roma e quindi ho preferito vedere quella, ma ieri è andato in onda questo speciale La guerra dei vent'anni in prima serata su Canale 5, in cui con interviste anche a Berlusconi, interviste a Rubi, si è parlato, era uno speciale sul processo che sta andando a conclusione. Oggi c'è proprio la requisitoria del PM Ida Boccassini e la richiesta si presume di condanna, tanto che Berlusconi su Repubblica viene dato per certo, certamente ci sarà la condanna. Comunque ci sono le polemiche, Berlusconi si video assolve alla vigilia della requisitoria su Rubi, così Piero Colaprico. Caso Rubi, in prima serata su Canale 5 l'autodifesa del Cavaliere per il Messaggero, mentre La Stampa fa un articolo a Canale 5 e Canale 5 fa il teleprocesso, non feci mai sesso con lui. C'è Jacopo Iacoboni a pagina 5 della Stampa che racconta quando dice no, non ho mai avuto rapporti sessuali con Berlusconi, la bocca le si stringe, le labbra si muovono, quasi impercettibile tic. Così è stata definita da altri una bugiarda cronica, ma alle 9:30 di ieri sera Canale 5 Rubi parla, flusso di incoscienza, Milano era nata dalla mia voglia di entrare nello spettacolo, nella moda, avevo partecipato a un concorso di bellezza con Emilio Fede ma non avevo soldi. Poi l'intervista a Berlusconi che racconta le cene di Arcora, la domanda mai fatto sesso con queste persone, dice ma va, ma assolutamente, assolutamente no. E però fa notare La Stampa deve schiarirsi la voce, forse mai si è vista nell'intera storia della TV italiana, racconta La Stampa, una trasmissione siffatta con Pamparana al posto della Boccassini, cioè il conduttore, stralci del processo con testimonianze, Ghedini incontrastato, un grande spazio alla nipote di Mubarak, tra virgolette ovviamente, che ammette le sue bugie ma solo per sopravvivere. Vabbè, vabbè, la guerra dei vent'anni, ma ripeto, io non l'ho visto, c'era Milan-Roma, tra il primo e il secondo tempo ho girato perché il promo diceva che ci sarebbe stata svelata la verità dei rapporti tra Berlusconi e Rubi, ma sono stato sfortunato, in quel quarto d'ora non hanno svelato alcuna verità e sono ritornato a Milan-Roma. Il PD invece si affida per il momento a Guglielmo Epifani, la prima intervista come la tradizione, Epifani la fa con Repubblica, tradizione del segretario del PD, fa questa intervista a Giovanna Casadio a pagina 9, il PD ha arrestato la caduta ma il correntismo va fermato, abolirò i caminetti dei big, questo è il titolo chilometrico dell'intervista a Epifani. Epifani, traghettatore sì, ma senza limiti. Il mio orizzonte è il congresso per ora, ma nessuno mi ha posto limiti. La parola traghettatore non mi offende, lo è chi aiuta a superare un ostacolo, una difficoltà. Così inizia Guglielmo Epifani, che dice: prima di dare la mia disponibilità ho riflettuto anche su che cosa, sul rischio che viene detto a ogni segretario del PD neoeletto, e cioè speriamo non gli facciano fare la fine di quello di prima, ho riflettuto anche su questo. E alla domanda, lei ha detto che sarà per lei come attraversare le fiamme a piedi nudi questo impegno, beh potrei dire attraversare un deserto di sale, però credo che abbiamo anche tanti elementi di fiducia, dalla maturità del popolo di centrosinistra alla forza dei nostri valori, al fatto che quando cadi tanto e eviti di implodere ti può essere più facile risalire. Insomma, Epifani dice, vero, siamo molto a terra ma ci sono gli elementi per andare avanti. Traghettatore è un'immagine positiva, nessuno mi ha posto questioni né io ne ho poste. Il mio orizzonte per ora arriva al congresso, diciamo non mi pongo limiti, questo Guglielmo Epifani, sul quale invece è critico Sergio Cofferati, ex leader CGIL, colui al quale Epifani è succeduto poi alla CGIL, e quindi insomma botte CGLine. Sul Corriere della Sera Sergio Cofferati invece critica: Guglielmo non si sceglie così il leader, nulla da obiettare sulla scelta di Guglielmo, premette Cofferati intervistato da Aldo Cazzullo, ma l'assemblea che lo ha eletto segna un arretramento molto preoccupante della vita democratica del PD. Bersani fu eletto con 1.600.000 voti, Epifani con 450. Insomma, si toglie poi qualche sassolino, si crea un problema di rapporti tra il neo segretario e i sindacati. Questo ancora Sergio Cofferati, E mentre scruta l'orizzonte lontano anche Matteo Renzi, sapete che Matteo Renzi, sul quale molti puntano gli occhi, racconta Maria Teresa Meli che la situazione del sindaco di Firenze è una situazione di attesa e anche di paura, perché dice politicamente Renzi guarda a sinistra per smarcarsi dal governo. Renzi pare che abbia questa sensazione affidata e confidata ai suoi: ricordatevi quello che è successo a Veltroni, io non voglio farmi logorare, e quindi per il momento mi ricandido a sindaco di Firenze. Ricordatevi quello che è successo all'ex segretario Veltroni. Teme dunque il logoramento Matteo Renzi. Da sinistra però la notizia che può essere sicuramente, visto che è anche un'esclusiva, l'ho letta solo sul Corriere della Sera, interessante, che riguarda il mondo del Partito Democratico, anzi i DS che vengono rispolverati per l'occasione, la notizia la racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, riguarda la vicenda di Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex braccio destro di Bersani in Lombardia, perché i DS si costituiscono parte civile contro Penati nel processo. Oggi ci sarà richiesta al tribunale, racconta Ferrarella, pagina 21 del Corriere, il partito dei DS, parte civile contro Penati. Sembrava che la prima udienza oggi al tribunale di Monza dovesse essere solo di smistamento del processo al 26 giugno, ma invece c'è questa novità: il Partito dei Democratici di Sinistra, che esiste ancora come soggetto giuridico anche dopo la nascita del Partito Democratico, chiede al tribunale di potersi costituire parte civile contro l'ex DS Filippo Penati, che nel frattempo è uscito dal PD. E d'altronde, racconta Ferrarella, il malumore dell'ex dirigente del partito per questa decisione dei DS. Fermento anche nel Movimento 5 Stelle, dove Vito Crimi, capo dei senatori del portagruppo, capogruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle, ieri dall'annunziata ha paragonato Beppe Grillo a quel papà che ha davanti al bambino Carponi, lo aiuta a camminare dritto. Insomma, così è per Vito Crimi Beppe Grillo, il papà che ci insegna la strada davanti a un bambino che cammina ancora Carponi. E ha detto, e il pericolo ci tiene fuori dai pericoli, il pericolo maggiore sono i soldi. E beh, si discutono sempre di questa vicenda della diaria: la parte della diaria non rendicontata va restituita oppure no? Ieri, racconta Andrea Malaguti sulla Stampa, uno dei più fini osservatori di quello che succede nel Movimento 5 Stelle, la capogruppo alla Camera Roberta Lombardi ha mandato una mail ad alcuni dei deputati. Oggetto della mail è questo: vorremmo sapere e abbiamo bisogno di capire come agirai tu personalmente, ovvero se restituirai l'eccedenza di diaria non rendicontata e dunque non spesa. Tu personalmente. È questo che ha fatto arrabbiare molti deputati. Qualcuno dice sotto anonimato: è una vergogna che una mail di questo tipo sia stata anche concepita. Qualcuno l'ha ricevuta, non tutti rispondono di sì, ma la mail c'è ed è questo. Mail della Lombardia ai riottosi: dici come ti comporterai a Grillo serve slancio, che crea un po' di malumore. Oggi pare una resa dei conti. Ci sarebbe tanto ancora da raccontare, ma qui ormai il tempo è pochissimo. Si potrebbe dire che ci sono il piano casa per la riforma di IMU, TARES e affitti, è interessante. Vi dico solo, come racconta il Corriere a pagina 5, che è allo studio del governo di sospendere non solo la rata sulla prima casa a giugno dell'IMU, ma anche quella dei capannoni agricoli industriali, quelli per i quali solo le 24 ore ha fatto un'inchiesta, ci sono rincari anche del 200% rispetto all'anno precedente. Il governo sta studiando se si può sospendere, chissà se usciranno dall'abbazia con questa notizia questo pomeriggio, anche l'IMU per capannoni industriali. Vi segnalo infine il Sole 24 Ore a pagina 3, racconta il modello francese per rilanciare il lavoro dei giovani. Si studia che cosa? Il contratto di generazione è un bonus di 4.000 euro all'anno alle imprese che assumono un under 26 e contemporaneamente si impegnano a conservare il posto a un senior di almeno 57 anni fino all'arrivo della pensione. Con questo in Francia hanno creato vari posti di lavoro, 500.000 entro il 2017, potrebbe essere anche la soluzione italiana. 24 mattino. Eccoci, sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, altro che viaggio in pullman per fare spogliatoio, almeno a leggere tutti i giornali, a giudicare dalle cronache di oggi, il viaggio ieri del governo verso l'abbazia di Spineto, dove sono riuniti in questi due giorni per fare spogliatoio, appunto, ricordava più, sì, uno spogliatoio calcistico, ma quelli delle grandi risse, che ne so, l'Inter di Ibrahimovic e Balotelli, o la Roma di Totti e Cassano. Qualcuno mi scrive addirittura della Lazio di Giorgione Chinaglia, no? La Lazio di Maestrelli, dove lì volavano anche, oltre che parole grosse, anche di peggio. Sta di fatto che oggetto della discordia ieri la manifestazione di due giorni fa del Popolo della Libertà a Brescia. Pare che Letta, almeno così racconta per esempio Repubblica, che è la più tranchant nel giudizio, abbia detto: un'altra manifestazione così, nella quale ci siete voi, per esempio parlando con Alfano, e io mi dimetto. Insomma, ci sono l'economia che langue, il lavoro giovanile, l'IMU, le tasse, queste sono le priorità, ma si litiga sempre sul nodo giustizia, questo è un dato di fatto. Voglio partire da qui, intanto ricordo anche il numero per i vostri ascoltatori, per i nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Tra il PDL e il PD, la situazione politica, saluto intanto Giancarlo Galan, che è presidente della Commissione Cultura. Buongiorno e benvenuto Galan, ben ritrovato. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti quelli che ti ascoltano. E allora, intanto le voglio fare questa domanda. Lei era a Brescia? Non l'ho vista. Ieri mi è stato impossibile andare. Non. Altro ieri, ma mi sarebbe... Mi dispiace ancora di più per quello che è successo, non esserci stato. Cioè per le contestazioni? No, per tutte le polemiche che sono venute dopo, anche per le contestazioni, più che per le contestazioni, che quelle ci sono abituato, ho sempre vissuto a Padova, si immagini un po', ma per le polemiche che succede? Che succede dopo, a Padova? Scusi, che succede a Padova? Padova è stata una delle città più turbolente della storia, che facevo lo studente quando c'era una manifestazione la mattina e una anche a pomeriggio. Quindi... No, non mi spaventa la contestazione, mi interessava, avrei voluto esserci, mi dispiace non esserci stato, proprio perché ci sono state così tante polemiche, dove c'è la polemica mi infilo tradizionalmente. Certo, poi Galan è alto 2 metri, quindi andate voi a dire, a contestare Giancarlo Galan, no? Prendeva 2 o 3 dei centri sociali, cosa faceva Galan? Ma prendeva... 2 o 3 non mi preoccupavano, ma mi preoccupava il fatto che avrei dovuto ricorrere forse a cose che nei convegni politici non si dovrebbero mai fare, mai vedere, mai sentire. No. Contestazioni violente, risse, uso della forza, no, assolutamente no. Però un paio di sganassoni li avrebbe mollati. Ma no, ogni tanto non fa mica male uno. Senta, le contestazioni, anche lei dice, come ha detto per esempio Brunetta, che erano con le bandiere di Sel, e quindi c'è una responsabilità anche di Vendola e della Presidente della Camera Boldrini. Io sono contro questo principio per cui c'è una responsabilità oggettiva. Io sono contro la responsabilità oggettiva perfino per le squadre di calcio, ho visto che è un esperto che parlava di Maestrelli. Sì, no, di non lo so, me l'hanno. A me la responsabilità oggettiva fa venire i brividi. Certo è che quelle bandiere c'erano, insomma, era quella gente lì, ma che fosse colpa della Boldrini, francamente no, la Boldrini, se le devo trovare una colpa, gliela do. Era quella di non aver, la Presidente della Camera deve obbligatoriamente contestare un episodio di violenza politica. Ecco, questo è mancato, io spero che lo faccia, ancora il tempo per farlo, è in ritardo grave, ma la terza carica dello Stato non è più un esponente di partito, è un esponente delle istituzioni, e le istituzioni non possono tollerare una cosa del genere, quindi la Boldrini lo doveva fare, questa è la colpa della Boldrini. Però lei dice, vabbè, ieri il portavoce è intervenuto della Boldrini, però le chiedo questo, allora Letta è un po' poco il portavoce perché lo sappiamo noi, non siamo mica nuovi, si fa intervenire il portavoce quando non si vuole entrare in polemica eccessiva, ma un po' poco. Senta, a Letta non è piaciuta per niente questa manifestazione di Brescia, cioè soprattutto non è piaciuto per niente il fatto che ministri, il vice premier per esempio Alfano, sia andato lì, e racconta oggi Repubblica di un duro faccia a faccia tra lui e Alfano, cioè a raccontare un'altra occasione del genere e io mollo, come avevo detto che non avrei fatto il governo a tutti i costi, posso anche non proseguire, non lo devo fare a tutti i costi. Che ne pensa di questa uscita di Letta? Senta, Letta molli per questo proprio non lo credo, ma io lo posso capire anche, io per carità ho fatto una cosa molto più piccola, ma il presidente di una giunta regionale l'ha fatto per 15 anni e mi dava fastidio quando un esponente della mia giunta partecipava a una manifestazione politica. Però l'ho sempre lasciato fare, qui poi si tratta del segretario di un partito, cosa vogliamo che faccia meno di fare politica? Quindi io capisco Letta, ma col segretario di un partito politico non può non fare politica. Seconda cosa, mi pare che Enrico Letta si dimentichi di tutte le contestazioni, addirittura al governo, di tutte le manifestazioni a cui partecipavano esponenti del governo Prodi contro il governo Prodi stesso. Era una cosa paradossale, eravamo arrivati al punto di dei Verdi, non so come si chiamasse da allora, che contestavano, sì, essendo al governo, le azioni del governo stesso. Quindi io capisco Letta, ma è sempre successo. È sempre successo. Secondo, soprattutto qui si tratta del segretario di un partito, ma insomma, va bene, comunque va bene la soluzione che hanno trovato, così che fino alle elezioni amministrative non si va a fare manifestazioni. Intanto Galan, mi lasci salutare Sandro Gozzi del Partito Democratico. Buongiorno Gozzi. Buongiorno. Insieme a Galan Gozzi stavamo parlando di questa manifestazione e di Letta che dice, almeno ieri pare che questo viaggio si sia tramutato un po' in uno scontro, almeno un acceso dibattito sul fatto a Brescia, cose del genere non le voglio più vedere. Galan ci diceva che certo il governo non potrà mai cadere su una cosa del genere. Lei, che è uno del PD, come dire, come la possiamo incanalare, contestatori insomma di questa situazione che si è venuta a creare, crede davvero che il governo possa cadere su una cosa del genere? No, io credo che il governo non possa cadere su una cosa del genere. È chiaro che un governo innaturale si crea dei problemi anche laddove i problemi non dovrebbero esserci, perché io non sono tra quelli che dice che contro un potere dello Stato non si può protestare. Se non si protesta contro un potere dello Stato, che sia la magistratura, il governo e il Parlamento, contro chi si deve protestare? Però è evidente che nel momento in cui si fa un governo inedito, che gli elettori, negli elettori di destra, negli elettori di sinistra avevano voluto, come quello che stiamo facendo adesso, di larghe intese, e gli esponenti principali di questo governo sono in piazza in una campagna elettorale permanente di Berlusconi, che lo riguarda molto più personalmente rispetto a quanto riguarda il resto degli italiani, perché purtroppo il problema è sempre il solito, che quando Berlusconi parla di giustizia e in questi 20 anni ha parlato e ha fatto interventi sulla giustizia, non li ha fatti pensando agli italiani, ma li ha fatti pensando a un solo italiano che è lui, è evidente che queste sono cose che non aiutano un inizio, che è un inizio complicato, difficile, e credo che se è vero che noi parlamentari dobbiamo farci carico di senso di responsabilità, anche se questo governo non l'avevamo voluto, beh, io questo senso di responsabilità, di imparzialità e anche un po', diciamo, di autogestione, diciamo così, autolimitazione, me lo aspetto soprattutto da dei ministri della Repubblica. Senta, ma invece Gozzi, quello che è successo al PD, che cosa non le è piaciuto? Perché cosa c'è di male nell'aver scelto Epifani come traghettatore? Ma guardi, io l'ho detto ieri chiaramente, averlo scelto come traghettatore nulla di male, perché noi avevamo bisogno proprio di un segretario traghettatore, cioè abbiamo bisogno di un segretario che abbia l'esperienza e la credibilità giusta per dare innanzitutto garanzie a tutto il partito che il congresso verrà organizzato nel modo più rapido e più efficace possibile, che sia un interlocutore valido e riconosciuto e riconoscibile da parte del governo, perché comunque in Parlamento noi siamo la prima forza in termini parlamentari, quindi è chiaro che dobbiamo dare al governo un interlocutore. Non mi va bene se il traghettatore dovesse lavorare per la sua successione. Non può Epifani in questi mesi anche pensare ad autocandidarsi o a fare... Mi sembrerebbe da una parte un vantaggio competitivo ingiusto rispetto a coloro che si candideranno al congresso, primo. Secondo, se diciamo questi che sono solo degli indizi, io Epifani non l'ha detto, io ho detto a me sembra così, sì. Se questi indizi si confermano è evidente che è molto più difficile organizzare con la giusta efficacia e con la giusta tranquillità il processo che devo portarci al congresso. Terzo punto, che è di merito, che è di merito, mi permetta, io non credo che, credo che delle figure come Bifani siano molto utili in questa fase, non credo che il Partito Democratico, che va ricostituito, perché non abbiamo mai mantenuto la promessa né del 2007 né prima dell'Ulivo, non credo che debba essere, possa e debba essere rappresentato da, da una generazione o da dei profili come quello di Epifani o di altri che erano. Insomma, non è questo gran rinnovamento, non è questo gran rinnovamento. Non è secondo me quel cambiamento del, non anagrafico, ma quel cambiamento delle idee. No, ma è chiaro, non è questione di età. Noi abbiamo bisogno, poi voglio dire, io ho espresso. Si vedrà. Comunque Epifani oggi su Repubblica dice il mio per il momento il mio mandato è, diciamo, fino al congresso, ma non pongo lei sa benissimo che sia in politica che in diplomazia, quando si dice per ora sta già pensando, for the time being, vuol dire che ci ho già pensato, sta già pensando, vuol dire che ieri avevamo visto giusto noi. Allora Galan non ha visto, non è stato a Brescia, non è riuscito, ha visto ieri invece questa cosa che io non ho visto, su, perché c'era la partita, appunto, dovevo vedere Milan-Roma, perché c'era questa roba di Rubi, la verità, la guerra dei vent'anni, no, perché lei è stato anche un genio di pubblicità, no, come mossa mediatica. Come la giudica? L'ha visto intanto? No, non l'ho visto, non ha visto quella. Confesso, mi peccate. Ma lei è proprio, ma lei è un traditore del partito, cioè, non lo so, è un traditore del partito. Sono un traditore di una domenica, però. Ah, vabbè. Credo che sia la prima. E del sabato, il sabato a Brescia. Ma per favore non fatemi più fare figuracce. No, vabbè, ma che ne pensa? Però avrà visto i giornali, insomma, se è stata questo speciale in prima. Da ex di Publitalia è stato un bel colpo. Cioè, può spostare che cosa? Può spostare la convinzione dell'opinione pubblica? Non lo so questo. L'opinione pubblica si esprime in un modo inequivocabile, che è il voto. Ora, milioni di italiani danno ancora il voto a Berlusconi. Allora, invece di scagliare anatemi o peggio fare quelle contestazioni come abbiamo visto ieri, un po' roba d'altro tempo, così, invece di combattere l'uomo, si dovrebbe per un attimo fermarsi e capire perché gli italiani credono ancora e credono altro che se ci. Ma questo sì, cioè il voto c'è, ma non è un paese singolare nel quale dovremmo parlare tutti i giorni di economia, di lavoro, il lavoro giovanile, oggi il Sole dice che forse si fa il contratto di generazione come in Francia, di IMU, di tasse, cioè siamo inchiodati alla giustizia tutti i giorni a parlare di questo. Perfettamente vero, però sono 20 anni che il problema della giustizia c'è e sono 20 anni che il problema politico italiano viene affrontato da una parte con l'odio nei confronti di una persona che non si riesce a battere con il voto. Sì, ma chiedo, il problema della giustizia è un problema che c'è, che ne so, come ci diceva Salvini, i padri separati che non vedono i figli, uno che per fare un'ingiunzione di pagamento deve ottenere, uno che per ottenere giustizia deve avere, oppure è il problema di un uomo con la giustizia, perché sono due cose diverse. No, è un problema di giustizia, ma io potrei andare avanti, penso una sola cosa, tutti gli investimenti internazionali che si perdono per le inefficienze della giustizia italiana. E quello siamo d'accordo. Beh, insomma, quello è da mettere mano a quello, solo che, come diceva, non so, Gozzi, lei vede che c'è questo problema o una commistione poi del problema singolo di una persona che ha dei problemi con la giustizia, Silvio Berlusconi? Chiedo a Gozzi, che è noto per essere una persona moderata, un po' come me, un secondo solo, ma non è un problema quello delle carcerazioni preventive di cui si abusa, non è un problema quello delle carceri sovraffollate e pieni di gente in attesa di giudizio. Ma questo è un problema. Ma questo è un problema, però io. È una tragedia la giustizia italiana, ahimè, per colpa di tanti, per colpa della politica. Questo è un dato di fatto. Gozzi, lei vede però che questo viene subordinato al problema personale, oppure Berlusconi vuol fare una riforma della giustizia a tout court? Il problema è proprio questo. Io ritengo che la giustizia italiana sia la più ingiusta d'Europa. Ci sono delle cose incredibili, 10 anni per il processo civile, qualsiasi persona, cittadino che abbia un problema civile con un tribunale trema perché sa quando ci entra e non sa quando ci esce. C'è un abuso della custodia cautelare, perché noi abbiamo il 15% in più di custodia cautelare. È evidente che la giustizia non funziona, parliamo del tema delle carceri, abbiamo 18.000 carcerati in più rispetto ai posti disponibili, 18.000, questa è ci ha fatto condannare dalla Corte Europea dei Diritti Umani a ripetizione. Il problema però è che in questi 20 anni Berlusconi non ha mai fatto delle manifestazioni in piazza per il problema delle carceri, non ha mai fatto delle manifestazioni in piazza per il problema del processo civile, non le ha mai fatte per i problemi. Cioè ce l'ha fatto per i suoi problemi. Solo per se stesso. Mm. E gli interventi, processo breve, processo lungo, modifica la prescrizione, la legge Cirielli, sono stati tutti interventi ritagliati su misura, non per il popolo italiano, ma per un solo italiano che è Berlusconi. Cioè le dice si applicano a tutto il popolo italiano, però le dice nascono come risoluzione di un problema personale. Essendo delle leggi si applicano a tutto il popolo italiano, ma nascono come risoluzione di un problema personale. E questa, a mio modo di vedere, la doppia responsabilità di Berlusconi. La prima è di aver cercato di utilizzare le istituzioni del governo per suoi fini personali, ma soprattutto quello di avere posto il tema della giustizia in un modo tale che ha creato le due parti contrapposte, lo scontro tra fazioni, mentre noi abbiamo bisogno di abbattere i muri reciproci e di affrontare veramente il problema della che giustizia. Faccia così, Gozzi, io mi devo fermare 5 minuti per la pubblicità, se può restare con noi, so che ci lasciar prima, mi fa molto piacere, fino alle 8.55 poi la liberiamo, se no intanto la ringrazio molto, riprendiamo, invece rimane con noi Giancarlo Galan, anche gli ascoltatori 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8.41 minuti, 800 24 0024, l'attualità politica tra PD e PDL, con noi ci sono Giancarlo Galan e Sandro Gozzi. Gozzi, le faccio ancora una domanda, grazie, so che poi ci deve lasciare, ma lei che è definito uno dei prodiani del PD, si scoprirà mai che sono stati questi 101 come i Dalmata che hanno impedito a Prodi di diventare Presidente della Repubblica? Guardi, innanzitutto non sono dalmata, sono dei Rottweiler che hanno sbranato il Partito Democratico e lo hanno suicidato, come ho detto più volte. Ma lei guardandoli in faccia non li riconosce dagli occhi, non ha dei sospetti? Ma diciamo che ho delle idee piuttosto fondate, ho delle idee piuttosto radicate, tipo? Però nell'urna poi è segreto, quindi è impossibile per me pubblicamente di dare. Marica, sono i dalemiani, sono i dalemiani, sono i dalemiani. Questo l'abbiamo detto più volte, che sono i dalemiani, i vari popolari, qualche giovane che ha creduto alla storiella che Prodi avrebbe subito sciolto le camere appena eletto, l'asse con Renzi, tutte queste storielle, queste falsità qui. È evidente che sono dei Rottweiler che hanno sbranato il Partito Democratico così come noi lo vogliamo, per questo serve un congresso ricostitutivo, altrimenti l'avrebbero vinta su tutta la linea, già l'hanno vinta sulla linea di evitare qualsiasi ulteriore tentativo di un governo di centro più centro-sinistra, diciamo così, perché è evidente che i Rottweiler hanno tolto qualsiasi altra opzione al Partito Democratico, se non quella che necessariamente, perché questo paese ha bisogno di un governo, abbiamo alla fine deciso di sostenere, che è il governo di larghe intese, perché d'altra parte sono anche delle questioni molto urgenti, sociali, economiche, che dobbiamo affrontare oltre alle nostre vicissitudini interne. Né credo che avevamo diritto, noi democratici, di fare ulteriormente pagare al paese le nostre beghe interne. Però queste beghe vanno risolte, perché che il principale partito del paese si sia incartato, si sia diviso, abbia tradito, questa non è una bella notizia per la democrazia, e quindi il congresso deve essere ricostitutivo non solo nell'interesse dei nostri elettori. Ma tanto non si scopriranno mai, questi Rottweiler non si scopriranno mai nel segreto delle urne. Vede, questo è il problema di una classe dirigente mediocre e vile che abbiamo in Italia, perché io le dico, se non fossero mediocri, non fossero vili, ci direbbero chi sono, quali motivazioni li hanno spinti a agire in questo modo e per quali obiettivi, perché questa è la buona politica, il confronto anche duro, la franchezza e la lealtà anche nelle divisioni. Rischierebbero l'espulsione del partito. Abbiamo confronto molle, abbiamo slealtà. Galan, sentito, intanto Gozzi la ringrazio, se ci deve lasciare. Galan invece mica come voi tutti uniti attorno al grande capo e grande leader Berlusconi, tanto da far litigare con Letta, che dice ma insomma dovete andare anche in piazza a sostenerlo, dei ministri. Io so che il senso di responsabilità mi imporrebbe la grande cautela e il silenzio, però io non posso negare che sentire un esponente dei miei avversari politici, dei miei competitor, del Partito Democratico, che definisce Rottweiler altri del suo stesso partito. Non oso pensare questi cosa dicano di quelli che hanno bocciato Marini per la prima volta, non so a quale categoria animale li paragonino. Beh, insomma, io dico che un certo intimo godimento me lo posso io lo sapevo, lei lì un po' che gode per le insomma, altro che larghe intese, abbandoniamo per un minuto le larghe intese per un attimo. È lì che gode, sì, però Galà, non è che voi siete tutti uniti eccetera, perché pare che ci sia anche nel PDL chi spinge per la linea i cosiddetti falchi, cioè che ha digerito ste larghe intese male, proprio male, e chi invece dice vabbè, ma dobbiamo senso di responsabilità, la melassa, no, queste cose qui. Questa è la natura degli uomini, dividersi, sottolineare le differenze, va bene, ma insomma è tutto tollerabile. Preferisco tornare a una questione più seria, anche se l'intimo godimento mi permane. C'è l'intimo godimento. le lascio ancora questo intimo godimento, no, per un minuto. Una cosa me la vorrei dire. Me la dica dopo il traffico. Sui problemi della giustizia. Sì, no, però Galan, me la dica tra un minuto, devo dare il traffico, se no sforo. Qui tra pubblicità e traffico è un po' un delirio. Eccoci qui, allora Galan, questa cosa sulla giustizia che ci doveva dire? No, per dire una cosa, per riportare sui temi, uno dei temi importanti, quello della giustizia, il dramma è proprio l'opposto di quello che ha detto Gozi poco fa, cioè che tutte le riforme erano fatte per un uomo, è il contrario, è che si sono affossate tutte le riforme purché non andassero a vantaggio di un uomo. Però nascono così un po' politicamente. Sì, però nascono così politicamente. Ma no, non nascono così. Ma perché allora nascono per questo periodo storico? Nascono per riformare la giustizia, e se in questo c'è un qualche ipotetico lontano vantaggio anche per quell'uomo, allora piuttosto non si fa la riforma che va a vantaggio di 56 milioni di italiani. Insomma, è il contrario di questo. È stato il dato. Sentiamo di qualche anni. Un po' del nostro popolo, Gino dalla provincia di Genova. Buongiorno Gino. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, io allora, prima di tutto, sono un elettore del Movimento 5 Stelle. Sì. Quello che volevo sapere, dato che il signore del PD è andato via, sì. Le mie domande erano due. Prima di tutto, quando i ragazzi del Movimento 5 Stelle hanno fatto il viaggio in pullman in agriturismo con Grillo, la stampa, tutti ci hanno fatto scappare, ci hanno fatto passare come scappati di casa, come gente che di politica non. Invece adesso niente, il pullman viene elogiato. Peraltro un pullman trascortato da polizia pagata da noi, ma lasciamo stare quello. E l'altro discorso che volevo fare dal signore del PD, dato che è andato via, però. Non c'è. Esatto, però la domanda gira a lei. Volevo sapere se il PD, secondo lei, allora la domanda la faccio a lei, cerca un'alleanza col Movimento 5 Stelle o i nostri voti? A me lo chiede, cosa ne so io? Esatto, ma io avevo chiamato quando c'era ancora. No, certo, ma lei voleva chiedere se il PD voleva l'alleanza vera o i voti del Movimento. No, perché mi sembra che il PD credeva di avere a che fare con un movimento che aveva preso il 4% come Fell. No, aveva probabilmente il PD che era voti come scusi, il PD, che non di più. Ma certo, ma Gino, il PD evidentemente in un paese che era spaccato in tre, visto che con PDL Bersani adesso detto non si poteva fare assolutamente il governo, l'unica alternativa era cercare una qualche forma di alleanza col Movimento 5 Stelle. Ma Napolitano banalmente non era assolutamente d'accordo. Ma no, Napolitano non era d'accordo, neanche quelli del Movimento 5 Stelle, no, nel famoso streaming si sono presentati. Dato che mi sento dire che noi da Rodotà dovremmo imparare tanti ragazzi del Movimento, lo penso anch'io, perché comunque il Movimento, io sono critico, ha fatto degli errori, lo rivoterai, perché due mesi di errori non sono come 20 anni di errori. Sì. Con due mesi di errorini. Quindi prima di sentirci dire dovevo imparare da Rodotà, forse era meglio che loro Rodotà lo votavano. Vabbè, insomma, queste comunque sono legittime posizioni politiche, Gino, legittime posizioni politiche. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto non faremo alleanze con nessuno, non le ha fatte, infatti è all'opposizione. E alla fine si è arrivato a quello a cui Bersani non voleva arrivare, cioè il governo di larghe intese. Giuseppe da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io non vorrei sembrare filo galaniano, però mi sembra che molte delle riforme o delle leggi che sono state fatte negli ultimi anni sono state un po' troppo facilmente bandite come leggi berlusconiane. Sì. Abbiamo appena varato una legge sulla corruzione, che è una fra le più dure in Europa, sì. Con una prescrizione di 10 anni. Vorrei sapere a quanti farebbe piacere avere un 10 anni il cappio di un provvedimento possibile. Quindi lei dice, come Galan, sono state fatte le leggi che erano buone, ma sono state fermate perché sono state interpretate leggi pro Berlusconi di persona. Si sente dire sempre che non c'è il falso in bilancio se c'è, si chiama false comunicazioni sociali, è definito in una certa maniera, ed è un provvedimento che è molto restrittivo, e sicuramente in Europa non ce ne sono tanti, quindi vorrei capire se tutta questa propaganda spesso non fa comodo a certe parti. Vabbè, Giuseppe, lei è un po' filo galagnale, che poi non vorrei apparire filo galagnale, non c'è niente di male. Ha detto la stessa cosa che reputa Galan. Carlo, sempre dalla provincia di Milano. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo solo porre una domanda. Come mai c'è questa confusione in Italia tra problemi di giustizia e problemi di Berlusconi? Parlare di problemi di giustizia quando Berlusconi è coinvolto in qualche faccenda. Non entro nei dettagli perché sono noti a tutti e quanti. Questa domanda, e poi chiudo, la colloco a un altro sillogismo gravissimo in questo momento. Sì. Perché si parla di problema di impresa come problema di finanza invece che problema di competitività? La sento alla radio, grazie. Grazie Carlo. Vabbè, le faccio rispondere da Galan, tanto Galan cosa vuole che risponda? Ha già detto. Insomma, però Carlo, Galan, effettivamente non si può negare che è così. Cioè, Berlusconi non si è mai visto fare una manifestazione per il sovraffollamento delle carceri, no? Ha mai fatto un comizio in cui, certo, nel comizio avrà detto ci sono le carceri sovraffollate, ma il motivo del comizio è che sono i suoi problemi giudiziari, non... cioè lui tuona contro i giudici perché c'è la giustizia lenta, no, perché ha dei problemi. Che l'aspetto penalistico sia il più rilevante, anche quello più appassionante, quello che maggiormente colpisce i nostri sentimenti, è evidente, quindi è evidente che la maggiore parte dell'attenzione la si rivolge a quella. Lei può immaginare che l'azza di seguito potrebbe avere un grande comizio in piazza sulle lentezze della giustizia amministrativa. Fa già i convegni. Va più alla pancia. Però, per esempio, sulle carceri è importante che un uomo come Berlusconi ieri abbia detto una cosa importante e molto liberale, e cioè che la situazione delle carceri è insostenibile. Senta, ma invece il paragone con il paragone preventiva è una bestialità. È molto bello che l'abbia detto. Sì, ma questo sì, ma il paragone con Tortola non è che proprio ha detto sono come Tortola, però ha detto ricordavo ieri la frase di Tortola, no? Io sono innocente, spero che lo siate anche voi, rivolta ai giudici. Il paragone con Tortola non dà un po' fastidio? Non lo so, io ero molto giovane quando ci fu la vicenda Tortola, però mi colpì fin da allora. Dopodiché i paragoni possono essere sempre un po' forzati, un po' meno, ma insomma c'è un problema di una giustizia che perseguita alcuni cittadini. L'ultima domanda è questa, di una parte della giustizia, me la dica come risposta flash che devo chiudere. Dovesse arrivare un'altra condanna, anche se in primo grado, il caso Ruby, c'è il rischio di tenuta di governo? Io non credo perché abbiamo tenuto, e Berlusconi ha tenuto da uomo di Stato, come deve essere, separata la vicenda personale da quella del governo. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata ovviamente, buon lavoro a Giancarlo Galan, Presidente della Commissione Cultura del Popolo della Libertà, così come a Sandro Gozzi, che è stato con noi del Partito Democratico. Che dire, seguiteci su Twitter, Alino Milan, quello sono io, 24 Mattino invece è la trasmissione, e dall'Alpino Peter Bescapè in regia, insieme a Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi. Diamo l'appuntamento a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.